Caroline si infilò nel vagone, raccolse il bambino tra le braccia e si riposò contro le lenzuola ammucchiate. Il bimbo le si accoccolava e gorgogliava al seno e una lacrima le scese lungo la guancia. La pulì via in fretta, le lacrime fanno male ai bambini. Quando lui si addormentò, lei cercò di mangiare, pensando che lui si doveva nutrire, ma riuscì a ingoiare solo pochi bocconi. Era drogata di stanchezza e non appena ebbe aiutato a lavare i piatti e a rifare il letto nel vagone, si tolse le scarpe e il vestito e si sdraiò. Era di nuovo come intorpidita, ma la sua mente era occupata. 20 dollari. Ah! Naturalmente doveva trovare lavoro, il bambino, il lungo inverno, quella strana città. 20 dollari non sono nulla. Il bambino e 6 mesi di freddo, ma lei era forte e volenterosa. La sua mente indaffarata la tratteneva tra il sonno e la veglia. Era consapevole del bambino e della signora Svensson con lei nel letto di piume. Il sottile arco di tela non escludeva la stranezza dei rumori prodotti dagli esseri umani nella notte. Anche quando l'ultimo cavallo si allontanò al galoppo, quando l'ultima porta sbatté, la città era ancora lì. Una sensazione inquietante che altre persone dormissero così vicine. Sentì il signor Svensson rotolare dalla sua coperta a terra. Si infilò agli stivali e condusse i buoi ad abbeverarsi. L'alba era grigia sotto il tetto del carro. Caroline si mise le scarpe e si infilò a fatica il vestito. Alla luce del giorno la città faceva meno paura di quanto lo fosse di notte. Le alte facciate degli edifici erano costituite da tavole sottili e dietro di loro c'erano solo baracche, con tavole e tavoloni. Gli edifici cercavano di ingannare con una importanza che non esisteva, erigendo dolorose linee verticali laddove tutte le linee erano basse e piatte. Ma il grande cielo e la prateria li ignoravano. I fienili, i pagliai e alcune piccole baracche si staccavano e si addensavano contro la prateria come una confessione di inutilità. Sicuramente, pensò Caroline, tra tanta gente, sotto tanti tetti, avrebbe potuto trovare un riparo per il bambino e per se stessa. Dopo colazione, prese il bambino in braccio e partì. La signora Svensson, comprensiva e ansiosa, la accompagnò. Gli Svensson si erano fatti in quattro per portare Caroline in città. Le avevano dato un giorno e gliene stavano dando un altro, al di fuori del magro numero di giorni in cui fare il lungo viaggio verso il Minnesota. Per 2 giorni i buoi mangiarono il loro mangime senza avvicinarsi alla fine del viaggio. Caroline era oppressa da questa gentilezza, si sentiva in colpa, era troppo da accettare, ma non poteva rifiutarla. Ma non avrebbe preso altro. Oggi avrebbe trovato un riparo invernale in città. C'era il deposito di legname, una pila di tavole, una collina di carbone che scintillava nera alla luce del sole. C'era un negozio di barbiere, lo superarono rapidamente, distogliendo lo sguardo, e c'era un negozio con la facciata sbarrata, poi la struttura di un edificio abbandonato e incompiuto, e il saloon era il prossimo. Si affrettarono, girando la testa e guardando la strada polverosa e il deposito spoglio. Le rotaie d'acciaio erano state posate, ma i treni non avrebbero circolato fino alla primavera. Dal saloon proveniva un odore stantio e fresco di birra e whisky e un uomo in maniche di camicia si attardava sulla porta. C'era il negozio, l'emporio. Caroline trasse un respiro profondo, spostò il bambino sull'altra spalla. Il piccolo era ben sveglio e si dimenava, il suo pugnetto morbido annaspava sul collo di lei. Una volta, in una primavera che sembrava ormai tanto lontana, Charles l'aveva portata in città. Lei aveva visto i signori Henderson e aveva parlato con loro, ma ci volle tutta la sua determinazione per entrare nel negozio. Era sempre stata molto timida. Il signor Henderson smise di spingere una lettiera di polvere e mozziconi di sigaro lungo il pavimento scheggiato e appoggiò la scopa a un barile di chiodi. Era magro e un pochino, in modo che le bretelle si stendessero dritte dai pantaloni alle spalle. Buongiorno, signora, cosa posso fare per voi in questa bella mattinata? All'inizio non riconobbe Caroline e lei si vergognò di non essere venuta mai a comprare nulla. In qualche modo non poteva dire che Charles era ferito e disse al signor Henderson che voleva rimanere in città fino al suo ritorno. Pensavo che lei sapesse dove io e il bambino potremmo stare, se io potessi lavorare, forse, per aiutarci a pagare. Charles mi ha mandato dei soldi, ma... Il signor Henderson si strinse la barba. A dire la verità, non sono rimaste molte donne in città. Gli uomini con famiglia se ne sono andati dopo che le cavallette ci hanno colpiti. La signora Henderson ora è un po' affollata, ma potrebbe chiedere a lei. Qualsiasi cosa le vada bene, a me va bene. Aprì la porta della stanza sul retro e chiamò: Ma, ci sono due signore che vogliono vederti. Entra pure. La signora Henderson stava facendo colazione. Due bambine con il codino stavano preparando la tavola, mentre nel capanno un bambino sguazzava nel lavandino. Da un'altra porta si intravedevano un letto a scomparsa e un bancale. La signora Henderson era piccola, svelta e volubile. Chiese a Caroline e alla signora Svensson di sedersi e di scusarla se continuava il suo lavoro. La teiera ronzava, il coperchio della stufa e la padella facevano rumore, la carne salata friggeva e fumava. Beh, è ovvio che non si può stare da sole in una concessione con l'inverno alle porte. Non ci sono molti uomini disposti a farlo. Vediamo un po'. Sarei felice di ospitarvi io stessa. Il cielo sa che un po' di soldi per il vitto aiuterebbero, ma vedete com'è. Solo una camera da letto per tutti e sei. E quando sarà il nostro turno di ospitare la maestra, dovrò preparare un letto per lei qui in cucina. Una fortuna, la stufa ci terrà al caldo. Non è che bruceremo fieno, visto il prezzo del carbone. Ci aspettavamo di avere una casa costruita prima, ma con le cavallette e questi tempi duri. E il bambino che urla, Evangeline, vai a occuparti tu di lui. Una delle bambine entrò nella camera da letto in penombra. Bene, vediamo, c'è la signora Decker, la moglie del proprietario del saloon. Una brava donna, pia. Ha solo una stanza, ma è grande e non c'è nessuno oltre a lei e a suo marito. Potrebbe mettere una tenda. Dovrà comunque farlo per l'insegnante. Poi c'è la signora Insel, che sarà l'agente della stazione. Sono qui fuori a occuparsi degli attrezzi della compagnia. Potrebbe accogliervi anche lei. Non so se accetterebbe una pensionante. È di alto livello e hanno il loro stipendio, ma a tentar non nuoce. La colazione era già pronta e la signora Henderson li esortò a prendere un piatto. Il signor Henderson entrò e disse con ospitalità: Siediti, non essere timido. In cantina ce n'è ancora un sacco in una tazza da tè. Caroline disse che no. Grazie, avevano già fatto colazione. La signora Henderson andò in strada con loro per indicare la baracca della signora Decker. Se non trovate quello che cercate, tornate subito qui. La mia terra. Dovete avere un posto. Credo che in qualche modo riusciremo a farvi entrare. C'era un negozio di sigari chiuso. C'era la scuderia Livery, Sale and Feed. Vi si trovava un calesse con i fusti sollevati, con aria impotente, e nella fila di stalli vuoti c'erano solo due cavalli. Caroline e la signora Svensson percorsero la strada polverosa fino alla baracca della signora Decker. Aveva una finestra di vetro con le tende. Alcuni pezzi di vite di fagioli morti si aggrappavano ancora alle corde che salivano lungo le pareti. La signora Decker era una donna magra, con gli occhi neri e brillanti e i capelli asciutti tirati dietro la fronte. Si fermò sulla porta e guardò con attenzione Caroline, il bambino e la fede nuziale di Caroline. Suo marito è all'est, ha detto. In che punto dell'est? In Iowa. Oh! E perché è rimasto in Iowa? Perché non è qui a prendersi cura di te? Non so perché ti abbia lasciato qui, tanto per cominciare. È andato all'est per lavorare, ripeté Caroline. Tornerà appena possibile. Le sembrava di non essere lei, di non essere se stessa, in piedi davanti a una porta a rispondere alla domanda di una donna sconosciuta. Le sue braccia erano stanche, il bambino si muoveva continuamente. Beh, dovrei chiedere a mio marito. L'ha mandata la signora Henderson, ha detto. Sì, credo che non ci siano problemi, ma dovrei chiederlo a lui. Quanto sarebbe disposto a pagare? Io vorrei pagare quanto vale, ma ho. Bene, bene, entrate, disse la signora Decker. La baracca era grande, ben arredata. C'erano un letto, un tavolo e delle panche, il fornello e una sedia a dondolo. Non si trattava di una sedia di legno dolce, ma di una poltrona di legno acquistata. Il segno di una corda sullo schienale di legno era in parte nascosto da una tovaglia all'uncinetto. Un merletto all'uncinetto bordava le tende della finestra fatte di sacchi di farina. Il letto era coperto da un lenzuolo immacolato e c'erano dei copricuscini alla testa e sulle pareti di assi grezze. Dietro la stufa e sopra la panca del lavabo erano appesi dei quadretti. Erano fatti di sacchi di farina ricamati in filo rosso, e sui quadretti c'erano fiori e uccelli, e sui copricuscini c'era scritto buonanotte e sogni d'oro. Spero che il bambino non crei molti problemi, disse la signora Decker. No, oh no, non piange quasi mai, disse Caroline. La signora Svensson iniziò a lodare con entusiasmo il bravo bambino. E la signora Decker interruppe: Beh, spero solo che non pianga al mattino. Il signor Decker deve riposare. Potremmo mettere il suo letto dietro una tenda in quell'angolo. Avete una rete? No, ho la biancheria da letto. Beh, non sono stata educata ad avere letti sul pavimento, ma credo che non si possa fare altrimenti. Sareste disposta a dormire con la maestra quando sarà il nostro turno di tenerla? Ah, Caroline non voleva dormire con un'estranea, ma sì, disse. Bene, potrebbe pagare $4 a settimana. Caroline era sbalordita. Guardò con occhi spalancati la signora Decker. Si mangia per due? E tutto è molto alto, bisogna trasportarlo. Nessuno ha fatto un raccolto quest'anno e le cavallette si sono prese il nostro giardino. Non vedo come potrei fare di meno. E c'è anche il carbone da comprare, non si può pensare di stare al caldo tutto l'inverno per niente. Non c'era abbastanza lavoro per due donne e la signora Decker era una donna che faceva tutto da sola perché nessun altro poteva farlo per lei. Certo, se non può pagare, disse la signora Decker. Non allontanerei dalla mia porta nemmeno un cane che non abbia un altro posto dove andare. Caroline disse con dignità: È un po' di più di quanto volevo pagare, ma ci penserò. Buongiorno, signora Decker. Sulla porta, la signora Decker sembrò sul punto di dire qualcosa di più, ma si chiuse la bocca e non lo fece. La signora Svensson prese il bambino. Oltre la baracca della signora Decker c'era solo la strada in declino e la prateria. Tra questa e la scuderia c'erano due baracche abbandonate e due che rivelavano abbastanza chiaramente che gli uomini vi stavano facendo baldoria. A Caroline sembrava irreale che stesse camminando su quella strada polverosa in quella strana città senza casa. Due cavalli neri passarono di corsa davanti al deposito di legname, trascinandosi dietro un calesse e un turbine di polvere. Davanti al negozio un giovane uomo avvolse le cime intorno alla frusta e saltò giù dal calesse. Faccia a faccia con Caroline si fermò, si tolse il cappello, si strappò il sigaro di bocca e lo gettò via. Buongiorno, signora. Ha ricevuto la sua lettera? Era il giovane uomo a cavallo che aveva fermato nella prateria a cui aveva chiesto di portare la lettera di Charles. Oh, buongiorno, disse lei. Sì, grazie. La seconda volta che l'ho chiesto mi hanno detto che l'aveva preso Two Gun Pete. Grazie lo stesso. Oh, non lo dica neanche, signora. Era tutto un sogno. Le persone vanno e vengono così nei sogni, senza motivo o scopo. In sogno si ha un pesante fardello sul cuore, un senso di perdita e di dolore più profondo e più ampio del pensiero. In un sogno, la signora Svensson cammina accanto a te, muta in compassione e preoccupazione, e il signor Svensson siede accanto al suo carro coperto in paziente attesa del vostro ritorno. Caroline sapeva di dover fare subito qualcosa. La signora Insull viveva al piano superiore del deposito, era l'unico edificio a due piani della città. Le rozze scale salivano dalla sala d'attesa, dove il signor Insull e un altro uomo riponevano gli attrezzi dell'azienda per l'inverno. Vado subito a bussare, si disse. Caroline tirò fuori tutta la sua determinazione, coraggiosamente, con un senso di svenimento nel mezzo delle scale, salì. La porta stava davanti a lei, sapendo cosa c'era al di là di essa e rifiutandosi stolidamente di dirlo. Ma non volle lasciarsi spaventare. Bussò alla porta. La signora Insel aprì. Stava facendo le pulizie, aveva lavorato con una rabbia furiosa ed era di pessimo umore. Aveva un asciugamano intorno alla testa, uno spazzolone in mano e un vortice di acqua saponata dietro di sé, tra le assi bagnate del pavimento e quelle asciutte. La stanza rivelò un lusso che Caroline non aveva mai visto. La parete era ricoperta da una carta a fiori e tutti i mobili appoggiati contro di essa erano lucidi, mobili comprati, non fatti a mano. Sedie e divano, Un grande tavolo centrale, un'alta lampada, velluto e rose dipinte, erano una magnificenza confusa dietro al corpo della signora Insel. Buongiorno, sto cercando lavoro, disse Caroline. Beh, qui ce n'è in abbondanza, ma se pensa che io possa permettermi una ragazza a pagamento si sbaglia di grosso, la signora Insel rispose seccamente. Se potessimo anche solo permetterci di vivere decentemente, non saremmo mai venuti in questo paese. Io lavorerei per il mio mantenimento, disse Caroline. Sei con i campeggiatori in fondo alla strada, vero? No, sì, cioè, questa è la mia amica, la signora Svensson. Sono venuta sul posto con loro, ma... Beh, segui il mio consiglio e continua ad andare a est con loro. Questo paese è andato in malora, secondo me. Prima te ne vai e meglio è per te. Non posso chiederti di entrare o da fare. Ma tanto non servirebbe a nulla. Abbiamo tre ragazzi in crescita da sfamare e non ci resta abbastanza per mantenere un gatto. Non che ci sia un gatto in tutto il paese. I topi ci divorano casa per casa, quindi se volete scusarmi. Stava chiudendo la porta. Buongiorno, disse Caroline. Si voltò e prese il bambino dalle braccia della signora Svensson. Stringendolo ferocemente a sé, scese le scale, attraversò la sala d'attesa e uscì da quel luogo. La signora Svensson si affrettò accanto a lei, sconcertata e turbata. Non aveva capito le sue rapide parole. Si strinse le mani chiedendo cosa dovesse fare Caroline. Vado a casa, disse Caroline. Sentiva che non avrebbe mai dovuto allontanarsi dalla sua fattoria. La moglie di Charles, il bambino di Charles, a cui veniva offerta la carità, con le porte chiuse in faccia. Ah! E mentre Charles, lontano, era ferito e indifeso, Charles aveva creato una casa per lei e lei ci sarebbe rimasta. Avesse dovuto affrontare la solitudine, il freddo, i lupi, i fuorilegge e li avrebbe affrontati. Sarebbe rimasta lì, sarebbe stata lì quando Charles fosse tornato. L'opposizione preoccupata della signora Svensson divenne frenetica, anche se lei non la toccò. Ma lei stava tornando a casa, Caroline stava tornando a casa. Non poteva permettere che gli Svensson perdessero un altro giorno portandola loro stessi a casa, ma lei stava andando a piedi, non sentiva, non pensava, non voleva altro che quell'unico impulso furioso. Un giovane stava uscendo dal negozio. Cercò goffamente di tenere in equilibrio i pacchi e di raggiungere il suo cappello. Sono i tuoi cavalli, questi? Gli chiese Caroline. Ci puoi scommettere, rispose con orgoglio. Tu sai dove abito? Mi ci porteresti per un dollaro? Ah, ci puoi scommettere. Il signor Svensson cercò di usare la sua autorità maschile, dicendo che era responsabile nei confronti di Charles della sicurezza di sua moglie. La signora Svensson supplicava e implorava, quasi piangendo. Se non c'era posto per lei in città, l'avrebbero portata con sé al rifugio in Minnesota. Caroline non prendeva nemmeno in considerazione l'idea di un simile viaggio verso l'ignoto dove Charles avrebbe dovuto cercarla per trovarla. La loro fattoria sarebbe stata presa prima che potessero tornare. L'unica idea era di raggiungere la casa che possedeva. Niente avrebbe potuto fermarla. Con prudenza e attenzione comprò le provviste per l'inverno. Il signor Henderson protestò debolmente, ma sapeva che non spettava a lui interferire con ciò che non era affar suo. Lei ringraziò gli Svensson con tutto il cuore. Sapeva che non li avrebbe mai più rivisti, i suoi unici buoni amici, e baciò la signora Svensson come aveva baciato le sue sorelle quando le aveva lasciate per sempre per venire a Ovest con Charles. Poi si trovò a sfrecciare sulla prateria dietro alla veloce coppia di cavalli neri, i loro zoccoli lampeggianti, le criniere, le code che soffiavano nel vento, l'aria che si frangeva sul suo viso e quello strano giovane accanto a sé erano l'ultima fantasia di quella giornata incredibile. Lei riposava in una specie di torpore, aspettando che il sogno finisse. Dopo alcune osservazioni anche il giovane tacque. Si chiamava Dan Gray, aveva detto, senza alcuna modestia, di possedere la migliore coppia di cavalli all'ovest di Council Bluff e che avrebbe voluto vedere l'uomo in grado di batterlo nel maneggio dei cavalli. La linea del cielo non cambiava, ma all'interno di essa la prateria passava con una rapidità inconcepibile. In lontananza Caroline poteva vedere i puntini che erano i pagliai e il fienile di zolle. Il giovane si mise a cantare, ma poi si fermò, consapevole della sua mancanza di educazione nei confronti della signora. Come Charles voleva cantare mentre attraversava la vasta prateria e Caroline gli disse: «Canta, canta, mi piace». Il sole stava calando in un gelido bagliore color albicocca, il bambino dormiva sul suo braccio stanco e lei veniva portata avanti dolcemente e rapidamente come in un sogno, mentre il giovane cantava allegramente la canzone. Oh, quando ho lasciato la mia casa in Oriente, così felice, così allegra, per cercare di conquistare la mia strada verso la ricchezza e la fama, non pensavo che sarei sceso a bruciare fieno contorto in una piccola baracca di zolle su una concessione. Oh, i cardini sono di cuoio, le finestre non hanno vetri e il tetto lascia entrare le bufere ululanti e sento il coyote affamato che sgattaiola su per l'erba intorno alla mia piccola baracca di zolle sulla concessione. I miei vestiti sono impregnati di pasta, ho un aspetto spaventoso e tutto è sparpagliato per la stanza e temo che se l'uomo del circo Barnum mi mettesse gli occhi addosso mi porterebbe via dalla mia casetta. Oh, i cardini sono di cuoio, le finestre non hanno vetri e il tetto lascia entrare le bufere ululanti. Mi piace questa canzone, disse Caroline. Hai una parte di terra di zolla? Ci puoi scommettere, due stanze e una tettoia. La mia concessione è a 4 miglia a ovest del sito della città. Le cavallette mi hanno ripulito quest'anno, ma posso far svernare i miei cavalli e comprare le sementi. Stai andando bene? Sì, sono abbastanza in forma. Fece una pausa. Ho anche una ragazza. È la maestra della scuola. Ci sposeremo a Natale non appena avrà finito. Che bello! Caroline sorrise. Le piaceva Mr. Gray ed era contenta che stesse bene e che si stesse per sposare. Ah, circa la tua età, vorrei portarla a trovarvi una domenica. La domenica andiamo in macchina. Questa pariglia di cavalli percorrerà 40 miglia e tornerà fresca come l'acqua. Caroline pensava che un giorno Charles avrebbe avuto anche lui la sua pariglia di guida e il suo calesse. Gli Svensson se n'erano andati, ma c'erano già altri amici, i vicini. Non erano così lontani quando una squadra di cavalli poteva percorrere 40 miglia la domenica. C'era il pozzo nella palude, i pagliai, il fienile, tutto stranamente immutato. Il signor Gray portò i fagotti e la scatola e tenne il bambino mentre lei girava la chiave del lucchetto. La sua piroga era squallida, con le provviste imballate e le brande spoglie, ma era casa sua. «Oh, questo sì che è un posto accogliente», disse il signor Gray. Ci piace. Caroline non riusciva a stare sveglia dalla stanchezza. Il signor Gray portò le provviste che aveva comprato, andò a prenderle un secchio d'acqua dal pozzo, chiese se poteva fare qualcos'altro e quando Caroline lo ringraziò gli diede il dollaro. Lui lo prese come se non fosse contento. Mi dispiace un po' lasciarti qui fuori da sola, ma credo che per un po' sarai al sicuro con questo bel tempo. Quando torna tuo marito? Non lo so esattamente. Hai una pistola, sai come usarla? Sì. Probabilmente non avrai problemi, ma è meglio così. Ada e io andremo da questa parte domenica prossima, se il tempo è bello. Bene, arrivederci. E se ne andò. In un attimo non c'era più. Carola prese la pistola dalla scatola, la caricò con dita prive di sensibilità. Stese le lenzuola sulla cuccetta. Si spogliò in stato confusionale e si sdraiò con il bambino. Bene, piccolo Charles John, eccoci qua, pensò, e si addormentò profondamente. Il bambino la svegliò alcune volte, ma a parte queste interruzioni, dormì 16 ore e il giorno dopo gli oggetti familiari che la circondavano le diedero un senso di sicurezza. Sentiva che avrebbe superato bene l'inverno. Ogni tanto un uomo resisteva in una fattoria solitaria, perché non avrebbe potuto farlo anche lei? Cara moglie, fai del tuo meglio, aveva scritto Charles. Eppure, in preda al panico, lei aveva quasi abbandonato la fattoria. Charles sarebbe potuto tornare senza un soldo in primavera. E cosa avrebbe trovato? Sua moglie che faceva la serva in città? E gente che si era impossessata della loro casa? Era molto più saggio rimanere qui. Il bambino le avrebbe fatto compagnia e ovunque fosse, avrebbe dovuto in qualche modo sopportare una mezza vita senza Charles. Quella settimana gli scrisse una lunga lettera che intendeva chiedere a Mr. Gray di portare all'ufficio postale in città. Non avrebbe fatto preoccupare Charles dicendogli che gli Svensson erano partiti. Con la penna era più eloquente che con le parole. Gli scrisse che lo amava, gli scrisse del dente del bambino, del fatto che il signor Svensson aveva tagliato il fieno sul loro campo. Il denaro che lui le aveva mandato era abbondante, scrisse. Lei e il bambino erano in ottima salute e non mancavano di nulla. I signori Svensson erano gentili e tutto era a posto per l'inverno. E con attenzione, nella sua scrittura delicata, ogni lettera inclinata con precisione, scrisse: stiamo vivendo momenti difficili, ma non dobbiamo soffermarci su di essi, bensì pensare al futuro. Non è mai stato facile costruire un paese, ma quanto è più facile per noi con i grandi comfort e le comodità, il kerosene, le cucine, persino le ferrovie e le poste veloci, che per i nostri antenati. Confido che, come i nostri genitori, potremmo vivere per vedere tempi più prosperi di quanto non siano mai stati in passato. E allora rifletteremo con soddisfazione che questi tempi duri non sono stati inutili. Questa lettera, accuratamente ripiegata, sigillata e indirizzata, non fu mai spedita. Rimase per tutto l'inverno tra le pagine della Bibbia perché il tempo cambiò improvvisamente. Il sabato mattina era mite come il mese di maggio. Il sabato pomeriggio una nuvola scura si alzò da nord-ovest, rimase sospesa nel cielo per un po' con una minacciosa nuvola di piume, poi, come un solido muro bianco, avanzò la bufera di neve e con la neve arrivarono i venti ululanti.